Ma la sensazione, insomma, è buona. Finalmente siamo arrivati all'8 agosto, sfileremo per 191esima, quindi ci sarà un po' di attesa ora che partirà da quando entra la Grecia, però insomma penso che entrerò col tricolore, insomma, sarà veramente uno dei più bei ricordi che mi porterò in queste Olimpiadi che ho fatto. Queste polemiche politiche rimbalzate da Roma, a te che sei il portabandiera, che effetto hanno fatto? Ma un po' me l'aspettavo, se devo essere sincero, anche se rimango sempre della mia opinione, che è giusto parlarne prima, è giusto soprattutto parlarne dopo, quando si tornerà, per non fare cadere nel dimenticatoio l'argomento, ma da quando iniziano i giochi gli atleti devono giocare. Massima libertà di espressione comunque per voi, ribadita anche ieri dal presidente Petrucci. Sì, questo è ovvio, c'è un articolo dell'articolo 51 della Carta Olimpica che regola un po' questi argomenti. Lo stesso CIO ha sempre detto che giudicherà col buon senso, insomma, quindi credo che ci sia modo e modo di dimostrare o dire le cose.